Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, di ritorno dopo un viaggio di lavoro che non sembrava finire più, rieccomi a voi. Camilla Lattanzi dai microfoni della redazione di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È domenica 10 febbraio 2013 e noi siamo alla 64esima puntata. Per la rubrica Visti da vicino, dedicata agli incontri con animali non umani, torneremo nel rifugio faunistico di Monte Adone, Sasso Marconi, e incontreremo dei magnifici esemplari di caprioli. Per la rubrica di attualità Animal House, prenderemo spunto dalla recente uscita del rapporto Eurispes e ne approfitteremo per un commento critico sulle statistiche riguardanti la consistenza di vegetariani e vegani in Italia. Sempre per l'attualità ci chiederemo se sia legittimo che all'arcicaccia sia stato affidato un progetto di educazione ambientale da svolgersi nelle scuole elementari e medie del Grossetano. Il progetto si intitola Conoscere la fauna. Rispolveriamo in questa puntata la nostra discontinua rubrica sillabario Mangia come parli e questa volta Lorenzo Guadagnucci ci spiegherà il vocabolo vegetariano. Per la rubrica di cucina sana per gli umani e buona con tutti i viventi, intitolata Il pasto gentile, la nostra chef emiliana cruelty free Sara Razzoli ci spiegherà come fare il salame al cioccolato. Sì, il dolce che abbiamo tutti portato alle festine delle nostre scuole elementari e medie. Il montaggio musicale della puntata sarà come sempre a cura del nostro Tommaso Gambassi. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Ci sono almeno due caprioli che sono accucciati, guardano con curiosità attraverso la finestra come sono arrivati. Qui intanto non sono solo due, ne vedi due in questo box, ma negli altri box ce ne sono altri. Sono tutti, quasi tutti, incidenti stradali. Quindi non sono causati da impallinamento di cacciatori, non avete una casistica di questo tipo? No, noi no. Oddio, anche qui ci sono i piani non di abbattimento ma di controllo, però è ben difficile che ci arrivino feriti da questo. Nella maggioranza dei casi sono proprio quando attraversano le strade, vengono investiti dalle macchine e poi veniamo chiamati. Loro potranno ritornare in natura una volta guariti o non sarà possibile? Tutti quelli che noi recuperiamo, se riescono a superare i traumi degli incidenti e guariscono, diciamo, vengono rimessi in natura. Quindi li trattate in modo, in vista di questo reinserimento, con poco contatto con le persone, immagino? Beh, il poco contatto è importante comunque perché il capriolo è un animale stressabilissimo e quindi non è che ama l'uomo. È bene evitare se si tratta di un animale adulto. Per quanto riguarda l'abituarlo non è importante perché comunque stiamo parlando di adulti che non dimenticano la loro vita selvatica. Quello che invece facciamo come accorgimento è con i piccoli. qui abbiamo dei cuccioli, dei piccoli, quelli che chiameremo volgarmente dei bambi. Sì, non è corretto del tutto. Bambi era un cervo, abbiamo anche due cervi effettivamente, per cui ci sono cuccioli piccoli sia di capriolo che di daino che di cervo. Soprattutto nella stagione che va da maggio a giugno, quando nascono i piccoli di capriolo, purtroppo ogni anno le persone che vanno nei boschi o perché vanno a funghi o perché vanno a legna o perché vanno semplicemente a passeggiare, vedendo i piccoli di capriolo lì da soli nel bosco, li scambiano per animali abbandonati. In realtà nelle prime 3 settimane di vita il capriolo non segue la mamma, ma rimane lì accucciato dove lei l'ha lasciato, e lei ogni quelle date ore va per allattarlo. Questo comportamento viene scambiato per un abbandono, che non è così. Semplicemente se vede la presenza dell'uomo la madre si allontana e il piccolo invece resta lì. Così ogni anno vengono raccolti incautamente dai privati. Quando ci riusciamo, in molti casi riusciamo a riparare il danno. Quando ci telefonano li facciamo sfregare bene con l'erba per togliergli l'odore dell'uomo, li facciamo riportare dove li hanno trovati. Ma non sempre questo è possibile, molte volte provano ad allattarli, provano a fare vari pasticci, così in quei casi li prendiamo noi. Per evitare l'imprinting in questo caso, noi abbiamo una sagoma imbalsamata che fanno da mamma, quindi attraverso quella sagoma noi li allattiamo. Questo evita il fatto che il piccolo associ il cibo all'uomo, quindi eviti l'imprinting. E così ogni anno, questo è il 12° anno che facciamo questo esperimento e che funziona, ogni anno riusciamo a trasferirli in aree protette. Anche l'anno scorso li abbiamo portati in Val Camonica, comunque liberi, insomma, praticamente liberi, è 900 ettari quella della Val Camonica. E quindi possono di fatto riprendere una vita in natura? Sì, assolutamente sì, con tutti i suoi problemi o non problemi, però se la possono cavare, insomma, ecco, perché non hanno questa dipendenza dall'uomo, ecco. Anche se è quasi inevitabile che un po' lo conoscano l'uomo per forza, perché vedono i volontari che arrivano e che si avvicendano, però non è quella dipendenza creata appunto dal biberon diretto, come per esempio facciamo col cinghiale. Col cinghiale non sarebbe possibile una cosa del genere. Il capriolo è un po' più ingenuo di natura, il cinghiale non si farebbe imbrogliare così. Comunque il consiglio, se vedete un piccolo di cervo, di capriolo, di daino in un bosco, lasciatelo stare, c'è la madre che ci pensa, non è abbandonato. Here in heaven, time can bring you down, time can bend your knee. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Ma quanti sono i vegani in Italia? E quanti i vegetariani? Quante volte ce lo siamo chiesto? E quante volte, soprattutto, ce lo hanno chiesto? In genere si pensa, ed è senz'altro vero, che l'abbandono del carnismo sia in crescita, e così l'espansione, in particolare, della scelta vegana, un tempo limitata a piccole minoranze di illuminati, visti con generale e profondo sospetto, spesso additati come estremisti e asociali, e oggi compiuta da molte migliaia di persone, confortate da una maggiore accettazione sociale. Detto questo, è assai difficile rintracciare numeri credibili. Le cifre più recenti sono quelle fornite nei giorni scorsi dall'Istituto di Ricerca Eurispes, che ha pubblicato il suo annuale Rapporto Italia. L'indagine è svolta su un campione di circa 1.500 persone, rappresentative dell'intera cittadinanza, e riguarda i più svariati aspetti della vita privata e pubblica. Il questionario include i regimi alimentari e il rapporto con gli animali, e da qui scaturiscono le stime sul numero di vegetariani e vegani. Dunque, secondo l'Eurispes, il 4,9% delle persone sono vegetariane e l'1,1% vegane. Se applichiamo questa percentuale ai dati Istat sulla popolazione, circa 60 milioni di persone residenti nel nostro paese, arriviamo a una stima di quasi 3 milioni di vegetariani più 660.000 vegani. Cifre ragguardevoli. ma distanti dalla stima diffusa qualche anno fa dall'Unione Vegetariana Europea. Una stima determinata non si sa bene come, ma ripresa in molti articoli e pubblicazioni. Ebbene, in Italia, secondo questa organizzazione, ben il 10% delle persone sarebbero vegetariane, contro una media europea del 3,5%. L'Unione Vegetariana Europea, si è detto per inciso, non menziona i vegani e quindi si suppone che siano ricompresi nella più vasta categoria dei vegetariani. Comunque sia, secondo l'Eurispes, sommando gli uni e gli altri, si arriva a poco più di 3 milioni e mezzo di persone, ben al di sotto dei 6 milioni corrispondenti alla stima dell'Unione Vegetariana Europea. A chi credere? La sensazione è che le stime, tutte le stime, siano molto approssimative. Basta dare un'occhiata ai rapporti Eurispes degli ultimi 3 anni per rendersene conto. Nel 2011, quindi appena 2 anni fa, i vegetariani rilevati erano il 6,3% della popolazione, quindi 1,4% in più rispetto ai dati del 2013, mentre i vegani non arrivavano che allo 0,4%, percentuale quasi triplicata questa nel 2013. Possibile che in un paio di anni i vegetariani siano calati così tanto, 800.000 in meno, e i vegani siano passati da 240.000 a 660.000? Certo, teoricamente è possibile. Ma il rapporto del 2012, l'anno mediano, forniva stime poco coerenti con simili andamenti. I vegetariani erano appena il 3%, quindi meno della metà dell'anno prima e 1.200.000 in meno rispetto all'anno dopo. Quindi un andamento sussultorio, con una rapida caduta e un'intensa risalita, tutto nell'arco in definitiva di pochi mesi. Quanto ai vegani, sarebbero passati dallo 0,4 del 2011 allo 0,1 del 2012 per poi esplodere fino all'1,1% di quest'anno. Quanto sono credibili oscillazioni così vistose e così tumultuose per comportamenti, cioè le scelte alimentari, che tendono a radicarsi nel vissuto personale? La sensazione è che le stime siano condotte senza la sufficiente accuratezza. Non perché Eurispes non sia affidabile, ben inteso, ma perché sarebbe probabilmente necessaria un'indagine ad hoc, con un campione ampio, domande precise, coerenti e la certezza che le stesse definizioni, vegetariano, vegano, siano davvero comprese. L'Eurispes nel suo rapporto fornisce anche altri dati, che hanno portato molti osservatori a concludere che cresce in Italia la sensibilità per la sorte degli animali. Dall'indagine risulta infatti che l'87,3% delle persone sono contrarie alla vivisezione, con un aumento di un punto percentuale rispetto all'anno prima, e che l'80,1% sono favorevoli all'abolizione della caccia. Un altro dato messo in evidenza è il fatto che oltre la metà delle famiglie, per la precisione il 55,3%, ha in casa uno o più animali, contro il 41,7% dell'anno precedente. Tutto bene quindi, no alla vivisezione, no alla caccia, sempre più gatti e cani che vivono in famiglia. Non possiamo che rallegrarci. Ma forse, per avere un quadro più realistico del rapporto di chi vive in Italia con gli animali, è giusto ricordare anche altri dati, che riprendiamo dal libro di Marco Verdone, Ogni specie di libertà, pubblicato da Altra Economia. Ogni anno in Italia vanno al macello 24 milioni di grandi animali, cioè mucche, maiali, cavalli, capre, pecore, più 29 milioni di conigli, più 500 milioni fra galline, polli, tacchini. La media giornaliera è di 1,4 milioni di animali uccisi, da sommare ai 2 milioni e mezzo di pesci e crostacei. Sono cifre che ancora una volta documentano l'insopportabile contraddizione esistente fra l'amore per gli animali dimostrato da milioni di persone verso cani e gatti e la complice indifferenza rivolta da quelle stesse persone, non tutte, ma quasi tutte, agli animali che non hanno avuto la fortuna nella nostra parte di mondo di essere considerati di affezione. Come diceva quel tipo, meditate gente, meditate. La notizia, in apparenza innocua, è comparsa sulla stampa locale poco tempo fa in un articolo di cronache della provincia di Grosseto. Si riferiva a un progetto in corso dal 2004 condotto dall'Arcicaccia nelle scuole elementari e medie denominato Conoscere la fauna delle nostre campagne. Il progetto, secondo la classificazione ufficiale, appartiene alla categoria della educazione ambientale. Secondo il portavoce locale dell'Arcicaccia, l'obiettivo è far conoscere ai bambini gli animali che vivono nei boschi e nelle campagne del Grossetano e con essi, parole testuali, il ruolo del cacciatore che va ben oltre lo sparo. è questa, ben oltre lo sparo, un'espressione che ancora ci mancava nel quadro pur ricco di eufemismi, di giri di parole, di sviamenti che accompagnano l'operazione politico-culturale che le associazioni dei cacciatori conducono da tempo per far dimenticare qual è la principale e diremmo essenziale funzione delle loro attività: armarsi, mirare un obiettivo che è sempre inerme, sparare, uccidere. I cacciatori non parlano mai di questo, se non fra di loro. Quando si rivolgono all'esterno, coscienti della poca simpatia che circonda una condotta che semina sangue e morte fra gli animali, e non di rado anche fra gli umani, preferiscono accreditarsi come ambientalisti, naturalisti, addirittura, nelle forme più ardite e ingenue di propaganda, strenui difensori della fauna. La difesa della fauna, naturalmente, consisterebbe nel mantenerne l'equilibrio. Infatti, secondo la tesi che ci viene propinata dai cacciatori, le battute di caccia e le uccisioni programmate permetterebbero di mantenere un equilibrio fra le varie specie che convivono in determinati territori. Altrimenti noi umani, perché alla fine l'equilibrio deve pur sempre essere quello gradito a noi umani, saremmo letteralmente invasi, sopraffatti, forse molestati o aggrediti da tutto un pullulare di cinghiali, daini, caprioli, magari beccacce, storni e via straparlando. Un incubo, roba che al confronto il film Gli uccelli di Hitchcock diventa una prospettiva rassicurante. La caccia oggigiorno non ha niente di naturale, semmai fa parte di un ciclo infernale che comporta l'immissione di animali nei boschi e nelle campagne, in vista poi della loro uccisione, in modo da soddisfare la voglia di divertimento dei cacciatori, camuffata beffardamente da ambientalismo. Ora, il punto è, naturalmente, valutare che senso possa avere affidare l'educazione ambientale e la conoscenza degli animali ad associazioni di cacciatori, che negli animali non umani non possono che vedere delle prede, dei gruppi di viventi da tenere sotto controllo tramite il piombo, che li ferisce e uccide, al fine di arrivare a un teorico equilibrio sottoposto ai capricci e alla crudeltà dei cacciatori stessi. La caccia, diciamola tutta, è una pratica odiosa, rigettata ormai dalla gran parte della popolazione. Ha un'intrinseca natura violenta e sopraffattrice. Non ha nulla di ambientalista se non nella visione distorta che possono averne dei predatori, i quali non pensano certo alla sorte dei singoli animali, ma all'obiettivo di rendere possibili i massacri sotto forma di selezione, piani di controllo, abbattimenti programmati e via dicendo, sulla base di una neolingua che cerca di mascherare sangue e violenza dietro una patina di fasullo tecnicismo. L'equilibrio della natura, come sanno tutti gli ecologi, si avvantaggia dell'assenza dell'uomo. I bambini delle scuole elementari e medie del Grossetano, ma altrettanto avviene altrove, essendo riuscita l'arcicaccia ad accreditarsi come associazione educativa, avrebbero diritto a un'educazione ambientale migliore, meno violenta, meno legata a una categoria che dà alimento all'industria delle armi. Alcune associazioni animaliste stanno facendo pressione anche con mail bombing sul ministero e sulle istituzioni scolastiche affinché interrompano simili piani diseducativi. È una campagna alla quale Restiamo Animali si unisce senz'altro. Troverete sul nostro blog tutte le istruzioni per partecipare. Ma mangia come parli! Parole, non solo parole, parole tra noi. Vegetariano è un vocabolo nobile che evoca alti sentimenti e un'attitudine gentile, ma è anche una parola che oggi è fonte di forti controversie e di non poco astio, per via delle ambiguità che qualificano il suo significato corrente, fermo restando che l'astio è anche frutto di un eccesso di agonismo. Quale sia l'ambiguità è presto detto. Vegetariano, sia come sostantivo sia come aggettivo, indica qualcuno o qualcosa che si caratterizza per l'esclusiva attinenza al mondo vegetale. È questa l'origine della parola, la cui comparsa nella lingua italiana, secondo i dizionari etimologici, risale alla seconda metà dell'Ottocento, per affermarsi poi all'inizio del XX secolo. Ma per vegetariano oggi si intende chi segue il vegetarianismo o vegetarismo, cioè un regime alimentare, citiamo dal devoto Oli, che esclude l'uso di alimenti animali, carne, ma in alcuni casi anche latte, burro, uova. Ecco dunque lo slittamento. Non si parla più di alimentazione esclusivamente vegetale, ma si apre la porta ai derivati animali. Difficile negare che ci sia un po' di confusione. Lo stesso devoto Oli, che definisce l'aggettivo vegetariano come costituito esclusivamente di alimenti vegetali, quando passa al sostantivo, prima ribadisce il concetto. Vegetariano, sostantivo maschile, che limita la propria alimentazione a cibi vegetali. Poi aggiunge uno sviluppo, secondo i principi del vegetarianismo, che apre alle ambiguità appena dette. Oggi dunque il vocabolo vegetariano indica chi segue un regime alimentare che andrebbe in realtà definito lacto-ovo-vegetariano, sommando cioè tre elementi, i vegetali, le uova, i prodotti caseari. Ma lacto e ova sono stati come inghiottiti dal termine prevalente, appunto la parola vegetariano, che ha avuto un'indubbia fortuna, ma che oggi suscita grandi insofferenze. Dal 1944 in poi, anno di nascita della Vegan Society in Inghilterra, da una costola, guarda caso, della Vegetarian Society, una nuova parola, vegan in inglese, vegano in italiano, sostituisce di fatto l'originaria accezione di vegetariano. Il termine vegano, per questa sua particolare origine, ha natura antagonista rispetto a vegetariano e in qualche modo ne denuncia l'ambiguità, se non la falsità concettuale. Gli attriti fra attivisti vegani e attivisti vegetariani sono tuttora molto vivi e vegeti, e il clima di scontro tende a prevalere su ciò che gli uni e gli altri hanno in comune: il rifiuto della carne, una scelta che va nella direzione del rispetto degli animali. Fermo restando che i vegetariani si fermano in realtà a metà strada, chi per scarsa conoscenza della filiera del latte e delle uova, chi per eccesso di prudenza. All'inizio degli anni 50, Aldo Capitini e altri fondarono la prima società vegetariana italiana. Erano dei veri pionieri, perché davano spessore culturale e politico alla questione animale, all'epoca del tutto ignorata, e la declinavano anche nell'ottica dei comportamenti quotidiani, accogliendo in questo la lezione di Gandhi, sì, il cambiamento che desideri anche per gli altri. Capitini e i suoi compagni di avventura a quel tempo non si curarono granché della questione dei derivati animali, forse non conoscevano la Vegan Society, erano mossi principalmente da una visione filosofica e politica, la non violenza, e arrivavano al vegetarismo, così lo chiamavano, da neofiti. È possibile immaginare, con un'operazione di fantastoria, che Capitini e gli altri, se avessero agito ai nostri tempi, grazie al cammino compiuto nel frattempo e alle conoscenze disponibili, avrebbero chiamato società vegana la loro associazione. Ma questa è solo un'illazione. Ogni vocabolo ha una sua storia, può vivere trasformazioni e correzioni di significato. Chissà che un giorno il termine vegetariano non riacquisti il suo significato originario, cioè di esclusiva attinenza al mondo vegetale, ciò che ora si intende per vegano. Alla fine, un pensiero malizioso. Ma perché non ci siamo tenuti quella bellissima parola che per un lungo periodo ha indicato tutti quelli che si nutrivano senza infliggere sofferenza e morte ad esseri viventi? È la parola pitagorico, che nel 1773, ben prima che si cominciasse a parlare di vegetariani, veniva definita così. Il vitto pitagorico consiste in erbe fresche, radici, fiori, frutta, semi e tutto ciò che dalla terra si produce per nostro nutrimento. Vien detto pitagorico poiché Pitagora, come tradizione, di questi prodotti della terra soltanto fece uso. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why Potrebbe accadere anche a voi, intorno a Ferragosto, di trovarvi a passare per Piazza Augusto Imperatore. Parallelo al Lungo Tevere, corre l'edificio che custodisce l'area Pacis, tagliando la prospettiva con una dura parete bianca. Quando attraversate in fretta la strada e costeggiate il monumento, è giusto l'una del pomeriggio. Dietro alla fermata dell'autobus, lo sguardo vi cade sul confine tra marciapiede e pendio che qualcuno ha appena varcato. Il ratto è grigio, lucente e si muove piano. Sembra non avere idea di dove dirigersi. Ancor prima di chinarvi, vedete che ha gli occhi rossi e gonfi come bolle d'acqua. Dalla bocca esce sangue. Con un fazzoletto lo raccogliete. Ora lo tenete nel palmo. Stringe lieve le zampe attorno al vostro indice. Sarà grande quanto un gattino. È giovane, si capisce dal pelo serico sotto cui si indovinano i muscoli, mentre la coda conica pare di gomma dura. Contro la mano percepite il battito affannoso del cuore e siete colti da sgomento. Quel topo ha mangiato un'esca avvelenata, probabilmente a base di dicumarolo, un anticoagulante pensato per causare emorragie interne ed esterne fino alla morte che sopraggiunge dopo molte ore. È il metodo più economico diffuso per sterminare le colonie di roditori che all'infinito si riproducono attingendo alle discariche su cui si eleva la società umana. La maggior parte di questi veleni lascia all'animale il tempo di ritornare nella propria tana. Il suo lento disfarsi non avverrà dinanzi a noi, piuttosto giù, nelle fogne. Ma questa volta un ratto agonizza proprio nel vostro pugno. Sopra un muretto recuperate mezza bottiglia di minerale abbandonata, ancora chiusa. Trovate un angolo riparato all'ombra, deponete il ratto fra erbe e pietre. Piano, su tutto il corpo, gli versate l'acqua. Ne sembra un po' rinfrancato. Sfregando il muso riesce ad aprire un occhio e scruta intorno. Col cellulare intanto vi mettete in cerca di un veterinario. Siete a piedi, a metà estate, gli ambulatori non rispondono. Non avete borso o tasche dove infilare l'animale, né vedete negozi aperti dove procurarvi una scatola. Nessun taxi vi accoglierebbe a bordo con un ratto per condurvi a precipizio in una clinica, nel tentativo di persuadere il medico di turno a somministrargli cortisone e vitamina K, con cui a volte si salvano cani e gatti che abbiano ingerito quel veleno. Passa un ragazzo con il suo cane, d'impulso lo chiamate. Mentre si avvicina, comprendete che potrebbe non ridire. Al contrario, rimane colpito dall'animale sofferente. Dovete andare via. Valerio, così si chiama il valoroso, promette che rimarrà ancora un po' a controllare. Fa il commesso in zona, appunto il vostro numero. Dopo mezz'ora vi telefona. All'apparenza più vispo l'animale si è mosso ed è andato a infilarsi in un anfratto, scomparendo. Lo ringraziate tanto, senza rovinargli quella buona impressione. Quasi di sicuro, infatti, il topo non se la caverà. Capita ogni giorno, a milioni di topi, proprio così. Potrebbe accadere anche a voi, allora, di scorgere la scia velenosamente ingannevole che separa quanto sulla terra si trova di sopra e quanto sta sotto, e di lacerarvi nell'intimo provando una disperazione di cui il pianto non potrà liberarvi. Il mondo in quell'istante vi si mostra per quel che è, una sfera che gira nell'immenso, rispetto a cui la distinzione, voi in piedi e il ratto che spira fra le vostre dita, è perfettamente illusoria. Nel movimento tutto si confonde e si completa. Non di meno, nel dissolversi dei vostri margini avvertite la possibilità di un varco lungo cui non sentirvi più alti solo perché camminate sull'immondizia. Se non potesse accadere anche a voi, ora ne siete certi, sareste perduti. Quello che vi ho appena letto è il primo capitolo, intitolato Sottosopra, del libro di cui parleremo oggi, La pelle dell'orso, della scrittrice e giornalista Margherita D'Amico, edizioni Bompiani 2012. Si tratta di un breve pamphlet, poco più di 140 pagine, uscito in una prima edizione nel 2006 e ripubblicato lo scorso anno con aggiornamenti e approfondimenti. Un volume che, a mio avviso, ha tra i vari meriti quello di affrontare il tema del rapporto dell'uomo con gli altri animali, puntando lo sguardo in primo luogo su quello che accade in Italia. Si parte dunque dal racconto di un ratto avvelenato e agonizzante per le vie di Roma, fino ad arrivare alla celebre storia dell'orso Jurka, che dà il titolo al libro, e della sua reintroduzione in Trentino con il progetto Life Ursus. Capitolo dopo capitolo, Margherita D'Amico parlandoci di caccia, di zoo, di corse e ippodromi, di vivisezione, ma anche di tradizioni, di religione, di cambiamenti, porta alla luce l'immoralità della cosiddetta civiltà umana, che si basa sull'assurdo presupposto che la vita degli altri animali valga meno della nostra e che all'animale uomo tutto sia concesso in quanto a sfruttamento e prevaricazione. Con un'analisi lucida e documentata, la pelle dell'orso ci aiuta a scoprire quanto gli altri animali, anche nel nostro paese, siano al centro di interessi economici, traffici, giochi di potere. Ma soprattutto ci costringe a non dimenticare che, proprio come noi, al di là dell'essere una massa uniforme e indistinta, gli altri animali sono prima di tutto singoli individui, animati da paure, passioni, idiosincrasie e voglia di vivere. Il tutto raccontato con una scrittura trascinante, ma anche altamente morale, che non dimentica mai di sottolineare le responsabilità di ognuno di noi nel cambiamento, anche se la lotta per l'uguaglianza e la liberazione è spesso dolorosa e difficile, perché, come scrive sempre Margherita D'Amico in un passaggio del libro a me molto caro, non è sempre facile quando senti con tutto il cuore che il maiale è tuo fratello e sai che ogni giorno a milioni coscienti vengono attaccati al gancio, squartati, mentre la maggior parte dei tuoi stessi amici non ci pensa affatto e chiama prosciutto l'esito della faccenda. E allora buona lettura da Beatrice Montini. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Timide le viole mammole, ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Ciao a tutti, sono Sara. Oggi vi spiego come fare un dolce irresistibile, che piace veramente a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Sto parlando del celebre salame dolce. Gli ingredienti sono 300 g di cioccolato fondente, 100 g di burro di soia, o in alternativa potete usare una buona margarina, 100 g di biscotti secchi, 100 g di nocciole, un pizzico di vaniglia e un pizzico di cannella. Tutto qui. La preparazione è veramente molto semplice e molto veloce. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato insieme alla margarina o al burro di soia. Nel frattempo tritate i biscotti fini, lasciando però anche qualche pezzetto più grande, e tritate grossolanamente le nocciole. Versateci la crema di cioccolata fusa, la vaniglia, la cannella e mescolate bene, velocemente. Ora versate il composto su un foglio d'alluminio, dategli la forma di un salame tipo, di un bastone, e avvolgetelo ben stretto. Fate riposare in frigo o sulla finestra di questi tempi, per almeno qualche ora. Quando sarà ben solidificato, si potrà togliere l'alluminio e tagliarlo a fettine e gustarlo. A vostro piacere potete farcirlo anche con mandorle, pinoli o cocco grattugiato. Ciao, alla prossima! Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.